Letture di Radio 24. Sono sempre più numerosi i casi di censura e autocensura in nome del politicamente corretto. Ma come tutti gli approcci che partono da un presupposto di superiorità morale, il politicamente corretto finisce per diventare totalitario, scrive Danilo Taino in un articolo pubblicato sul Magazine 7 del 18 dicembre. Nelle università americane esprimere opinioni è diventato rischioso. Un movimento che si autodefinisce di protezione dalle idee che potrebbero turbare le coscienze di una parte degli studenti sta imponendo una censura. Figure come l'ex segretario di Stato Condoleezza Rice e la managing director del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde e altri hanno dovuto rinunciare a tenere discorsi in alcuni atenei per le proteste degli studenti. Avrebbero potuto dire cose per alcuni sgradevoli. In altre università, i docenti che non si piegano alle richieste di censura vengono ostracizzati. Alcuni corpi accademici e associazioni studentesche propongono la correzione di opere letterarie e storiche nelle parti che potrebbero essere percepite come offensive da parte di alcune minoranze. Una spiegazione dice che i giovani d'oggi sarebbero così viziati da faticare a sopportare discussioni che li possano mettere a disagio. Abituati a essere protetti da ogni imprevisto, si mobilitano per impedire che qualcuno li turbi. Può essere che questa spiegazione sociologica abbia qualche fondamento. In realtà c'è qualcosa di più alla base di un fenomeno per il quale, incredibilmente, i giovani chiedono meno libertà di espressione. Diversamente, non si spiegherebbe come mai anche molti loro insegnanti condividano questa ondata censoria. È che negli anni scorsi ha preso piede un racconto della vita sempre più politicamente corretto, un pensiero debole che invece del confronto delle idee impone un conformismo, un rifiuto delle diversità a favore di certezze ritenute indiscutibili. Si poteva pensare negli anni scorsi che il cosiddetto politicamente corretto fosse un venticello. Ora si scoprono i suoi effetti perversi. Non si tratta infatti di un approccio alla realtà solo ideologico e conformista. Come tutti gli approcci che partono da un presupposto di superiorità, in questo caso morale, diventa normativo e totalitario. Non ammette repliche, anche quando le argomentazioni non sono sostenute dai numeri e dai fatti. Non risulta che nelle università americane il razzismo sia in crescita, che le minoranze siano tiranneggiate, che le violenze sessuali aumentino. Eppure, chi lo sostiene viene messo al bando, come chi non boicotta Israele. Le università americane sono considerate il livello più alto dell'accademia globale, della ricerca, della moderna originalità di pensiero. Il politicamente corretto rischia di svuotarle dall'interno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Danilo Taino, Il politicamente corretto non diventi censura, dal Magazine 7 del 18 dicembre. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Letture di Radio 24. Ho dovuto subire la corazzata Potemkin almeno 12 volte e non sono mai riuscito a dormire perché ero sempre in prima fila. Racconta Paolo Villaggio in un articolo dove rievoca il suo rapporto con il capolavoro di Eisenstein in occasione del 90° anniversario della prima proiezione. La Cineteca, per molti intellettuali, era un luogo di autentica tortura. Le proiezioni erano abitualmente il sabato sera, quando gli intellettuali di estrema sinistra avrebbero voluto passare una serata naturalmente divertente, e per molti di questi disgraziati addirittura esaltante. Andare a cena con una deficiente prosperosa, volgare ma disponibile. Purtroppo c'era il maledetto obbligo del film d'autore. La caratteristica di questi film erano il bianco e nero, la lunghezza minima di 3 ore e 20. Il tutto di una noia mortale. All'ingresso c'era l'organizzatore maledetto, un certo Turolli. Entravano tutti rassegnati e domandavano: «Cosa ci fate vedere questa sera?» Il film più temuto era la terrificante corazzata Potemkin. Gli intellettuali entravano con gli occhi sbarrati, quasi rassegnati. Prendevano abilmente posto nelle ultime file, dove potevano prendere sonno anche russando sguaiatamente. Quando si riaccendevano le luci in sala, cominciava la parte più atroce. Turolli, che era quasi un nano con gli occhi a palla, pronunciava, con una punta di crudeltà, la mitica frase: «E ora la parte più esaltante della serata, il dibattito». Turolli aggiungeva sempre: «Abbiamo avuto la fortuna di vedere un film in bianco e nero, senza colori, e lungo fortunatamente più di 3 ore, che possiamo definirlo uno dei più grandi film di tutti i tempi». In questa fase non si poteva dormire, ma si era condannati a fingere di aver passato uno dei momenti più esaltanti della propria vita. In uno di questi finali drammatici, un certo Tino Formichini si era abbattuto rovinosamente sul pavimento, folgorato dalla noia. Tutti intorno, risate devastanti. Formichini, con la faccia sul pavimento, aveva urlato: «Scusate, erano anni che volevo dirlo. La corazzata Potemkin è una cagata pazzesca». La sala è esplosa, come lo fa allo Stadio Olimpico quando Totti segna un gol contro la Juventus, l'odiata squadra dei padroni. Ho subito la corazzata, penso, dalle 12 alle 16 volte e non sono mai riuscito a dormire perché ero sempre in prima fila. Ricordo una maledetta serata di fine anno quando gli intellettuali entrarono rassegnati e domandarono ancora più rassegnati: «Cosa ci fate vedere questa sera?» E Turolli, con una faccia da iena disperata, rispose: «Purtroppo ho da darvi una brutta notizia. Non sono arrivate le pizze della corazzata e in sostituzione siamo costretti a proiettare Giovannona Coscia Lunga, mentre in sala saranno distribuite sfortunatamente delle pizze napoletane con mozzarella di bufala. Quel film lo abbiamo visto tutti 3 volte. È stata una serata esaltante». Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Villaggio, I 90 anni della corazzata Potemkin. Villaggio, solo noia, non cambio idea. Dal Corriere della Sera del 21 dicembre. Li chiamano multitasking. Sono quelli che parlano, scrivono sul computer, rispondono a mail e cellulare, tutto nello stesso tempo. Una volta chi non guardava in faccia il proprio interlocutore rischiava di essere definito un maleducato. Oggi è di moda, scrive Nanni Del Becchi sul Fatto Quotidiano. Se qualcuno a cui state parlando da 5 minuti tace e non ha nemmeno alzato la testa per guardarvi in faccia, sappiate che non è maleducato lui. Siete obsoleti voi. Non avete capito di avere di fronte un vero multitasking. Multi de che? Avrebbe chiesto un tempo Alberto Sordi. Multitasking, risponde in coro l'esercito di chi proclama la bellezza del saper fare più cose nello stesso tempo. E che più cose si fanno, meglio si fanno. Dunque, non solo il vero multitasking vi stava ascoltando attentamente, è che nel frattempo ha controllato la posta elettronica, ha ritwittato una battuta spiritosa di Renzi, ha chiesto l'amicizia a Jovanotti e stava mandando un messaggio su WhatsApp a suo cugino che vive in Australia per sapere che tempo fa a Melbourne. Multitasking. Ennesima riprova della superpotenza dell'inglesorum. Una volta, quando ancora si parlava l'italiano, quel tipo che non vi guarda in faccia avrebbe rischiato di essere definito un maleducato, ma anche uno stacanovista, schiavo dell'efficienza. Adesso è il non plus ultra delle capacità umane. Ma com'è che ci siamo ridotti così? Hanno cominciato le donne a dichiararsi non tanto rompitasking, come gli uomini hanno sempre sospettato, bensì multitasking e a vantarsi che la cosa era provata. Il vanto consiste nella storica capacità di gestire la casa, seguire i figli, essere in carriera, partecipare al torneo di burraco e seguire il corso di cucina vietnamita in giornate farcite quanto un doppio Big Mac, ma senza che nessuna di queste attività ne risenta. Stabilito il primato, invece di dividere in modo più equo il Big Mac, con i maschi oppressori li hanno plagiati a fare altrettanto, incluso il corso di cucina vietnamita. Poi è arrivata la dittatura del web, il paradiso del multitasking, dove fare una cosa per volta, magari concentrandosi con calma, è sostanzialmente inibito a livello ormonale. Dopo aver studiato i meccanismi di questa attività frenetica, alcuni neuroscienziati dell'MIT hanno accertato una dipendenza da dopamina che induce il cervello a cercare stimoli esterni. Ma anche senza referti medici, basta osservare come il vero multitasking non possa vivere senza digitare compulsivamente il suo smartphone, carico di app come l'uniforme del feldmaresciallo Josef Radetzky era carica di medaglie. Ecco perché pretendere da costui un'attenzione esclusiva sfiora l'offesa. Non è maleducato lui, sei inopportuno tu. Oltretutto, non ne vale la pena. Parlando a quattro occhi con il vero multitasking, si stabilisce lo stesso feeling che parlando a un boiler, ma almeno il boiler ha tre velocità. Per rompere il ghiaccio, l'unica è alzarsi e mandargli una mail dalla stanza accanto. Allora vi risponderà all'istante. E se gli siete simpatici, vi metterà anche un like. Fermate il multitasking. Voglio scendere. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Nanni Del Becchi «Fermate questo multitasking. Voglio scendere dalla frenesia». Da Il Fatto Quotidiano del 14 dicembre. Lo scorso 3 dicembre è stata lanciata dalla base di Kourou nella Guyana francese la missione spaziale LISA Pathfinder, il cui lancio inizialmente era previsto per il 2011. Lo scrittore Vincenzo Latronico, che era presente al lancio, racconta la sua esperienza. La sensazione di essere in un film di fantascienza non fa che acuirsi con l'inizio del conto alla rovescia, rito fra i più spettacolari e codificati della mitologia spaziale. Al 30, la terrazza del centro di controllo comincia a popolarsi di giornalisti. Al 20, se ne apre una più ampia, subito sotto, che si affolla in fretta di fisici e ingegneri e tecnici presenti nella base, ma non coinvolti direttamente nelle operazioni, con al petto le mostrine di un cruciverba di enti e agenzie. ESA, ASI, CNES, AVIO. Prima del 10, la voce ripete «Tutti i sistemi nominali» e poi «A tu, de DDO, attention o de compte final». L'altoparlante gracchiante scandisce in francese gli ultimi 10 numeri del conto alla rovescia. Di, neuf, il bagliore della pista si è fatto più vivido e si riflette sulle nuvole subito sopra. Huit, sept. La terrazza è quadrettata dagli schermi luminosi dei cellulari. Sis, cinq. Il conteggio dei secondi sembra rapidissimo. Non fai a tempo a sentirne uno che è già passato. Quatre, trois. Si sta così pigiati che a stento si respira. Eppure non si sente volare una mosca. Deux, un. Top, allumage. All'inizio, vedi solo la luce. La missione LISA Pathfinder è un laboratorio scientifico nello spazio che condurrà un esperimento preliminare alla missione LISA prevista, se tutto va bene, per il 2028. Spiegate male da uno che le ha capite male, le cose stanno così. Certi eventi gravitazionali straordinari, come la collisione di due galassie, provocano delle minuscole alterazioni dello spazio, che si propagano come onde, comprimendo o allungando le distanze fra le cose al loro passaggio. È un'alterazione tanto minuscola che finora non è stato possibile rilevarla neppure nelle stazioni sperimentali costruite allo scopo, fra cui l'interferometro Ego Virgo di Pisa. Albert Einstein ha vinto il premio Nobel per avere predetto teoricamente l'esistenza di questo fenomeno, che ha battezzato onde gravitazionali. Captarle non è solo una questione di completezza teorica. Costituirebbero a tutti gli effetti una fonte parallela di informazioni sull'universo, in aggiunta a quelle elettromagnetiche a cui ci siamo affidati per scoprire ciò che sappiamo ora. Per astrofisici e cosmologi sarebbe come avere un organo sensoriale in più. In termini davvero grossolani, per capire se le distanze fra le cose si modificano, devi prendere due cose e tenerle molto ferme e misurare costantemente lo spazio che le separa. Per capire se le distanze fra le cose si modificano lungo un'onda, di queste misurazioni devi farne due. Questa è l'essenza di LISA, la missione del 2028 che prevede di lanciare tre satelliti in formazione per rilevare se la loro distanza reciproca, 5 milioni di chilometri, subisce variazioni nell'ordine di un picometro, cioè un milionesimo di miliardesimo di metro. Per farsi un'idea, è come cercare di rilevare una variazione di un litro nella massa dell'Oceano Atlantico. Ma la cosa più difficile è il molto ferme. Il cosiddetto rumore di fondo rende impossibile un esperimento come LISA sulla Terra, che ha terremoti e faglie tettoniche e campi magnetici a produrre interferenze. Vedere se sia in grado di eliminarle completamente è lo scopo di LISA Pathfinder, la missione lanciata a inizio dicembre. Il modulo sperimentale contiene due cubi di una lega di oro e platino che andranno in orbita intorno al primo punto di Lagrange, un punto nello spazio in cui la gravità di Sole e Terra si controbilanciano. I cubi lì saranno lasciati in caduta libera, sospesi a mezz'aria, e il satellite li seguirà, proteggendoli da nutazioni, campi magnetici, raggi cosmici e vento solare. Per farlo è dotato di propulsori in grado di esercitare una spinta anche di pochi micronewton, meno di quella esercitata dalla caduta di un fiocco di neve. I due cubi di LISA Pathfinder, distanti 38 centimetri, simulano un braccio di LISA, lungo 5 milioni di chilometri. Dei laser ne misurano costantemente posizioni e distanza reciproca. L'esperimento mira a dimostrare che è possibile ottenere una condizione di caduta libera del tutto priva di interferenze esterne, a misurarne la traiettoria con una precisione mai raggiunta prima d'ora. Nelle parole di Álvaro Jiménez Gañete, direttore dei programmi di esplorazione scientifica e robotica dell'Agenzia Spaziale Europea, lo scopo della missione è creare il posto più tranquillo dell'universo. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Vincenzo Latronico Dalla foresta amazzonica allo spazio, dal numero di gennaio del magazine Il. Per secoli il gatto nero è stato sinonimo di sfortuna, da evitare come la peste. Ma ora, negli Stati Uniti, è scoppiata la febbre del gatto nero. Attori, cantanti, ma anche gente comune, tutti lo vogliono. E proprio per scacciare la cattiva sorte, come racconta Raffaele Panizza in un articolo pubblicato su Panorama. Il gatto nero, sia nelle sue versioni più carboniche e classiche, sia in quelle più trendy, l'ascesa dello Scottish Fold, grazie al micio star di internet, Maru, appare inarrestabile, entra nelle case e diventa il baluardo di un futuro dove gli agenti esterni non possono più disturbare la determinazione a crearsi un'esistenza do-it-yourself. Animale non solo da ammirare intensamente, ma simbolo d'avventura e reazione alle avversità, anche grazie alla storia che ha fatto impazzire gli inglesi di quel certosino, ribattezzato Phileas Mogg, che ha viaggiato 250 miglia da Manchester a Bristol, intrappolato nel cofano di un'automobile e arrivato a destinazione senza un graffio. Senza contare il moltiplicarsi di iniziative organizzate da Toronto a Los Angeles nel giorno del Black Friday, quello dei saldi pazzi in America. Migliaia di gatti neri abbandonati offerti in adozione e richieste esaurite in poche ore, almeno secondo gli organizzatori dei tanti Black Cat Blitz. Tra gli innamorati del genere, moltissimi uomini in cerca di mutuato carisma e sintomatico mistero. L'attore Morgan Freeman, che con un gattino nero in testa, in contrasto con i capelli sale e pepe, ha realizzato uno dei suoi ritratti più recenti e iconici. Poi George Clooney, la sua amicina nera si chiama Shelby, e Ian Somerhalder, considerato da People uno degli uomini più sexy del pianeta. E infine John Travolta, Iggy Pop e Pete Doherty, personaggi con così tante vite che, a sommarle alle sette del gatto, diventano praticamente immortali. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Raffaele Panizza, Volevo un gatto nero, nero, nero, da Panorama del 4 gennaio.